Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone. Zibaldone. Un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, bentornati un altro venerdì qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo, già lo sapete, è un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica radio libera barcellonese, Contrabanda FM 91.4 sul litorale catalano, sempre che i problemi tecnici siano risolti nella nostra meravigliosa radio libera, e in streaming all over the world dalla web www.contrabanda.org. E poi, ecco, sicuramente 100% sempre in podcast. Ci trovate sul nostro blog zibaldone.contrabanda.org. Da lì potete scaricare tutti i podcast dello Zibaldone dal 2011 ad oggi. Oggi puntata, l'ultima del mese di maggio, puntata ricca micificco, come si suol dire, perché abbiamo tanti ospiti, abbiamo anche un bel omaggio musicale che ci accompagnerà come fil rouge durante tutta la puntata. Non vi dico chi è, però forse qualcuno di voi già lo capirà da questa prima canzone che vi proponiamo. Erano parecchi anni fa, siamo alla fine degli anni 60 esattamente. 5 o'clock and I walk through the empty streets. Thoughts fill my head, but then still no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by. Night is my friend, and in him find sympathy. He gives me day, gives me hope, and a little dream too. E vabbè, proprio quest'ultima parte di questo brano ha a che fare, ma non solo quella, con l'omaggio che ci accompagnerà quest'oggi a Zibaldone per la scomparsa lo scorso 17 maggio di Vangelis, grande musicista e compositore greco conosciuto all over the world. Qui l'abbiamo ascoltato in uno dei suoi primi successi insieme agli Aphrodite's Child, la banda che aveva formato alla fine degli anni 60 insieme a Demis Rousseau e Lucas Sideras. It's 5 o'clock, era l'anno 1969. E Banzo, innanzitutto bentornato a Zibaldone, ma i nostri ascoltatori si chiederanno: ma perché Zibaldone dedica insomma questo omaggio a Vangelis? Beh, ovviamente perché è un grande autore che merita di essere ricordato, ma anche perché noi ci siamo detti ha un sacco di contatti con l'Italia. Allora, però, spulciando un po' e ringraziando il nostro Fausto De Salvia che ci aiuta in queste ricerche musicali nel baule dei ricordi e soprattutto tutto grazie ai potenti mezzi online di cui dispone la nostra redazione, abbiamo visto che c'era tanto materiale, quindi abbiamo deciso addirittura di dedicare due puntate di omaggio nel mezzo di interviste, ospiti e invitati vari a Vangelis. In questa prima puntata ripercorreremo un po' i suoi grandi successi a livello internazionale, mentre nella prossima ci focalizzeremo proprio sull'Italia. Banzo, detto questo, bentornato e buon pomeriggio. Grazie Steven, mi hai fatto un po' un trabocchetto, mi hai chiamato in causa, io ero lì pronto a scattare, poi hai fatto tu lo spiegone dovuto, che ero prontissimo a fare anche io, ma eccoci qua, bene. Ecco, non è necessario ripetere lo spiegone, perché questo ammorberebbe moltissimo i nostri ascoltatori. Comunque buon pomeriggio a tutti. A proposito, ecco, sì, Vangelis è scomparso il 17 maggio 2022, e ecco, è una, diciamo, una circostanza che ho già analizzato altre volte, ecco, che spesso ci troviamo purtroppo a riscoprire i musicisti solo davanti all'estrema circostanza della morte, però ecco, dobbiamo dire che forse, ecco, non è ideale. Però comunque è meglio omaggiare chi lo merita, almeno in questa occasione, piuttosto che saltare a piedi pari, ecco, l'opportunità, benché triste, ecco, diciamo. Eh sì, Vangelis, pseudonimo di Evangelos Odisseas Papa Thanasiou, era nato nel 1943 ad Agria in Grecia e ci ha lasciato appunto pochi giorni fa, famoso per tantissime colonne sonore, ma all'inizio appunto aveva cominciato proprio con gli Aphrodite's Child, questa band che si muoveva tra anni 60 e anni 70 con una forte base di rock progressivo. E a proposito di rock progressivo, che atmosfere in questo brano, ecco, secondo me accostabili, ma non so se si può parlare di ispirazione perché sono gruppi più o meno coevi, però era un discorso, secondo me, qui declinato in una chiave più prog, anche se siamo, il brano del 69, siamo proprio agli albori del movimento, ecco, secondo me c'era una qualche affinità con il Procolarum, ecco. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ma insomma, tra il prog e poi l'elettronica, ecco, perché poi insomma Vangelis soprattutto sarà anche con l'elettronica, diversi tipi di sperimentazione e così via, che diventerà insomma un artista di fama internazionale. E proprio, ecco, Steven, qui mi dai il destro, scusa, per commentare una sciocchezza nella quale mi sono appena imbattuto, cioè la Wikipedia anglofona dà, per, come sai, i musicisti indica vari generi di riferimento, la Wikipedia anglofona ne indica vari per Vangelis: elettronica, ambient, progressive rock, evidentemente per gli Aphrodite's Child, Però ecco, la Wikipedia italiana descrive Vangelis unicamente come musicista New Age, riportato anche nella Wikipedia anglofona, però mi ha sconcertato, ecco, sì, scusa, sì. Vai pure avanti. No, no, hai fatto bene a dirlo, noi andiamo però, passiamo ora al 73, dal suo secondo album solista, dopo l'esperienza degli Aphrodite's Child, Vangelis con Robert Fitoussi alla voce, ci andiamo ad ascoltare da Earth, questo suo secondo disco, Come On. Rock progressivo, ma come vi dicevo, poco a poco il posto è lasciato all'elettronica. Poi ritorniamo ancora qui e vi racconterò anche chi sono gli ospiti di questa puntata. Come On Earth, 1973, Banzo, una battuta telegrafica su questo brano che poi il tempo stringe, abbiamo tanti ospiti quest'oggi. Titolo del brano, Come On. Testo del brano, Come On. Non ho contato esattamente quante volte, ma saremo una ventina almeno, no? Sì, come minimo, la voce era quella di Robert Fitoussi. Oggi tanti ospiti, vi dicevo, perché avremo tra poco con noi Gerardo Balestrieri, che ci presenta il suo nuovo disco Dancing, che esce proprio il singolo, esce quest'oggi, il disco uscirà tra un paio di settimane, ce lo presenta in anteprima, poi troveremo Davide Tosques, che ci presenta anche lui il suo nuovo album, che esce anche questo disco, Beside Flows the River, proprio quest'oggi, che è un album strumentale, una bellissima colonna sonora di un documentario, e infine avremo anche Anna Corcione che ci parla della sua mostra che si inaugura quest'oggi nelle Spy Souvenirs di Gracia, che mostra che si chiama Naturalia, e poi continueremo appunto con Vangelis e lo facciamo subito con un'altra canzone. Banzo, rimaniamo nel 1973 perché qui Vangelis è autore, arrangiatore di un brano che è la sua prima collaborazione con una voce femminile. Ma va bene, sì, sentiamolo, Come On, ma forse bisognerebbe dire chi è la voce femminile. Perché... Sì, speravo lo dicessi tu, Melina Mercury, la canzone si chiama Athena, Melina Mercury una delle grandi artiste greche, poi anche ministra della cultura dopo la dittatura, e appunto una canzone contro la dittatura dei colonnelli che sarebbe caduta di lì a poco, brano pubblicato in francese come Athène ma ville, Athène la mia città. Noi ci andiamo però a sentire la versione originale in greco, Athena, Melina Mercury, e ovviamente Vangelis che ci accompagna nello zibaldone di questa ultima puntata di maggio. La, la, la, la, la, la, la, la, la. di paliura nostro, Athena, Fotiato e Maton Bedion su, and a filly, his left ears filly, Stony Mito, Rosisi Anatoli, Athena. Σε βάψανε ξανά στο αίμα, καρδιά μου, δεν πίστεψες ποτέ στο ψέμα. Οι φοιτητές και η εργατεία στο δρόμο Αθήνα, ψυχή βαθιά, ψυχή βαθιά, αγάντα Αθήνα. Αθήνα, στις γης το δαχτυλίδι πέταρα, καρδιά μου, το κλάμα των μανάδων μέταρα, σφιγμένα χείλια ο καημός βαρύς. Αθήνα τώρα θέλεις και μπορείς. Ο δρόμος τη λευτεριά σου θα γιορτάσει. Αθήνα, ο φασισμός δεν θα περάσει. Οι φοιτητές και η εργατεία στον δρόμο Αθήνα, ψυχή βαθιά, ψυχή βαθιά, αγάντα Αθήνα. Οι φοιτητές και η εργατεία στο δρόμο Αθήνα, ψυχή βαθιά, ψυχή βαθιά, αγάντα Αθήνα. Eh beh, una canzone davvero bella e soprattutto che ci riporta un'epoca come quella dei primi anni 70, soprattutto in Grecia, ma anche per esempio nella penisola iberica di fine delle dittature autoritarie, nate in alcuni casi come a Madrid e a Lisbona nell'epoca del fascismo. Banzo, una battuta telegrafica su questa canzone. Ecco, abbiamo sentito consecutivamente due brani del 1973, due mondi sonori molto lontani, che comunque definiscono solo gli inizi della carriera di Vangelis probabilmente, ed ecco, questo alla faccia del musicista New Age, ecco, sì. Te la sono legata al dito. Assolutamente, noi andiamo subito a ballare un po' e ci ascoltiamo Dancing, la prima canzone che vi proponiamo di Gerardo Balestrieri, che poi ci attende in collegamento per parlarci di questo suo nuovo singolo e di questo suo nuovo album. Tanta voglia. Questo è Il ritmo scatenato di Dancing, il nuovo singolo che esce proprio quest'oggi, 27 maggio, di Gerardo Balestrieri, che ci accompagna oggi in radio. È un gradito ritorno perché, insomma, è da un po' di anni che lo ascoltiamo, ve lo facciamo ascoltare e chiacchieriamo con lui dei suoi dischi. Gerardo, innanzitutto, bentornato a Zibaldone. Ciao Steven, e grazie del rinnovato invito. Un piacere averti qui. Fortunatamente ci sentiamo spesso. Anche a me tanto. Sì, ma perché poi non ti fermi mai, guarda, ricordo solamente gli ultimi album degli ultimi 6 anni, dove sempre poi ti abbiamo intervistato, Canzoni Nascoste il 2016, Covers l'anno successivo, Sincretica nel 18, Canzoni del Mare Salato nel 19, nel 21 addirittura 2 dischi, Elettro Gypsy Pandemico, un disco molto particolare, Rue de la Paix, più cantautorale per così dire, e adesso 2022 è uscito oggi il singolo Dancing, ma il disco, che si intitola proprio come il brano che ci siamo appena ascoltati, uscirà tra un paio di settimane, il prossimo 10 giugno. E insomma, innanzitutto non ti fermi mai, e sono dischi poi sempre molto suggestivi e che, diciamo, mostrano anche i tuoi tanti gusti musicali, Gerardo. Beh sì, è un po' un paradosso, non mi fermo mai stando fermo, nel senso che poi questi ultimi 3 anni, nell'immobilità tra pandemia e insomma tutto quello che è accaduto, l'unica era quella di mettersi a comporre un po', e così sì, però fortunatamente insomma sono contento che almeno non mi sono fermato da un punto di vista discografico, ecco. Adesso stanno riprendendo anche un po' i concerti, per cui vediamo. Bene, bene, speriamo, si incrociamo davvero le dita questa volta, anche se negli ultimi 2 anni l'abbiamo detto spesso. Ascolta, Dancing è un disco e una canzone, anche quella che ci siamo ascoltati, che è un po' una canzone manifesto, no? È un disco, tu lo presenti così, di canzoni estive scritto in pieno inverno, una terapia dovuta in questi anni appunto chiusi in casa, come ci raccontavi. È un disco che un po' recupera non solo i Dancing degli anni 60, ma in realtà guarda anche un po' al di là. Però sì, c'è questo ritorno un po' a delle scene, dei luoghi del passato, in alcuni casi, come anche la stessa copertina del disco mostra, che sono un po' spariti. Beh sì, sì, è un disco appunto che ho scritto e registrato a gennaio, praticamente tra gennaio e febbraio scorso, per cui una terapia. Mi sono immaginato in pieno inverno di vivere invece un'estate meravigliosa, insomma. Tornando un po' all'immaginario che dicevi dei Dancing anni 60, ma con una visione anche un po' ovviamente verso la contemporaneità, mettendoci un po' di ironia, e anche la sonorità che rispetto agli altri dischi, al di là di Elettro Gypsy Pandemica, è molto diversa rispetto alla forma, diciamo, cantautorale mia, più classica, insomma. È un disco un po' anni 80, ecco. Io ho ascoltato tanto, e si sente anche in quest'album, Battiato, l'ho suonato anche tanto, insomma, in questi mesi. È stato un po' un lavoro forse di aver anche assorbito appunto un po' di sonorità battiatesca, ecco, e da lì poi mi sono divertito, insomma, a mettere su quest'album anche con degli strumenti poi precisi. Sono partito in particolare dalla Roland 808, Steven, la batteria elettronica che aveva proprio battito, che poi hanno usato tantissimo, insomma. E la sonorità della 808 è stata un po' la fondamenta da cui partire per poi costruire tutta, insomma, la parte strumentale dell'album. Invece dal punto di vista dei testi tu giochi in realtà anche, e qui insomma ritorna ancora Battiato, ma penso poi anche al David Bowie, soprattutto degli anni 70, della fase glam rock, con il collage di parole, no? In questo caso parole prese dalle canzoni proprio italiane degli anni 60 e 70, a cui insomma con l'idea del dancing tu ti richiami. Sì, riguardo la parte testuale, è stato proprio un lavoro di collage, che poi riprendendo anche il nome del gruppo appunto di quegli anni. Praticamente mi sono divertito ad ascoltare un po' i gruppi dell'epoca, non so, dai Dick Dicka, ai Teppisti dei Sogni, agli Alunni del Sole, a tantissimi altri. E ascoltavo appunto queste canzoni cercando di prendere quelle frasi o parole che più mi colpivano, quelle anche più potenti da un punto di vista proprio sonoro, ecco, fonetico, e da lì le ho messe assieme, cercando un po' anche a volte di strutturare, insomma, anche capovolgendo completamente il senso della, ad esempio, non so, c'è Lisa e Metaponto, che forse ascolteremo dopo, dove gioco un po' sulla canzone Lisa dagli occhi blu, eh sì, che invece rimane la stessa anche se non ha più le trecce. Ascolta, e un'altra caratteristica anche, no? E tu sempre, ci sono molti significati, molti richiami sempre nelle tue canzoni, non solo in questo ultimo disco, ma ecco, In Dancing, che tra l'altro è pensato come un vecchio LP, diciamo, no? Un vinile con un lato A e un lato B, infatti il disco è composto di 8 canzoni, ma poi ogni canzone, diciamo, in ogni canzone compare una piccola città di provincia italiana dove appunto negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale aprivano i cosiddetti dancing. Sì, è un concept album che poi ha appunto, tra le varie caratteristiche, ha anche questa, cioè quella di aver dedicato un po' in ogni canzone, c'è appunto una cittadina da Vasto, che è il titolo anche di una delle canzoni, a Metaponto appunto, o Forte dei Marmi, insomma tutto quell'immaginario appunto un po' anni 60, sempre da Balera, dalla Versilia ad altre zone, insomma, italiane. Ascolta, visto che citavi Vasto, una canzone si intitola proprio Vasto Abracadabra e tu la presenti come un twist, sì. Schweppes, ascolta, spiegaci questa cosa. Schweppes. Ecco, Schweppes. No, vabbè, come dire, il twist Schweppes nacque con Dimmelo, una mia canzone contenuta nell'album Canzoni Nascoste. E da lì, insomma, quando mi viene un po' la canzone un po' twisteggiante, mi piace sempre, insomma, definirla un po' Schweppes, ecco, che è un po' leggero. è un disco per ballare, no? Dai, diciamo, è per divertirci, per pensare all'estate. Sì, sì, sì, sì, è un disco che richiama un po' appunto la leggerezza di fronte appunto a questi anni pesantissimi, insomma, un'esigenza un po' di, come dire, di distrarsi anche un attimo da pensieri un po'. Ci vuole, soprattutto in questo periodo tra pandemia e tutto quello che sta succedendo e che stiamo vedendo tutti i giorni, in questo momento anche la guerra che è tornata appunto in Europa. Ascolta, noi, per quanto ancora in anteprima, possiamo far ascoltare ai nostri amici di Zibaldone un paio di altre canzoni. E andiamo ad ascoltarci ora È finita la scuola. Mi piacerebbe però che ce la presentassi tu. Certo. È finita la scuola è la seconda traccia dell'album. Tra l'altro, dopo l'uscita del singolo di oggi, Dancing, fra qualche giorno uscirà anche un videoclip di questa canzone qui, ed è dedicata un po' sia ai genitori che ai ragazzi, insomma, tornando sempre appunto a questo periodo poco felice, a questi anni poco felici anche per quanto riguarda la didattica, insomma. È una canzone che mette insieme un po' di ironia, di sarcasmo e una visione appunto a quella che è la contemporaneità, anche riguardo la cosiddetta didattica a distanza che a questo punto basta e avanza, insomma, una situazione anche della strofa della canzone stessa. Poi c'è da dire, Gerardo, invece, se pensiamo alla scuola, diciamo, in presenza, ecco, quando è finita la scuola, i ragazzi, e noi lo ricordiamo anche quando eravamo bambini, gioivamo perché cominciava una lunga estate, 3 mesi più o meno di vacanze, e invece i genitori immagino che si mettano le mani tra i capelli perché dicono: adesso che facciamo tutti i giorni con questi bimbi e come li gestiamo? Almeno andavano prima a scuola, no? Infatti ci sono due strofe che dicono appunto: programmano i genitori 3 mesi a venire, c'è chi va a piangere in Messico o in preda ad attacchi di panico. sì, insomma, organizzare 3 mesi post scolastici di vacanze non è facile. Ce l'andiamo a sentire. Finita la scuola, Gerardo Balestrieri, dal suo nuovo disco Dancing. Oggi esce il singolo, tra 2 settimane esce il disco, noi in anteprima vi facciamo sentire questa canzone. È finita la scuola, aprono i campi estivi, giocano nella natura, avesse ragione un ragionier negli anni Ottanta, aveva più ragioni e aspettative. Chi dice che all'istituto d'arte si dipinge a stenti, ha poca prospettiva e pochi denti. Anche un architetto al giorno d'oggi, seppur spinge, fa fatica ad andare avanti. È finita la scuola, Gerardo Balestrieri, un mantra, una danza della didattica a distanza. Gerardo, in questo tuo disco Dancing, che stiamo presentando quest'oggi qui a Zibaldone, ci sono anche due brani in realtà che si richiamano, no? L'ultima traccia del lato A, pensando nei vecchi vinili, e l'ultima traccia del lato B, che si intitolano Mi piace, non mi piace. Ecco, sono due canzoni che si collegano molto a quello che ci raccontavi prima su, insomma, le influenze di Battiato, in fin dei conti. Beh sì, Mi piace, non mi piace, è un po' una tecnica che, da quel che ho capito, poi è una tecnica dei poeti, dei trovatori forse. Richiamano un po' il cosiddetto le nuit et le plaisir, che appunto poi giocava tanto anche Battiato tra l'insalata russa, Vivaldi, Ruba Passa, esattamente, insomma. Esattamente. C'erano delle cose che preferiva, altre no. A me ha ispirato sia appunto Battiato stesso, che anche c'è un caro libro di Roland Barthes in cui proprio lo scrittore intitola questi due passaggi, Mi piace, non mi piace, e poi fa un elenco. E io l'ho trovato sempre molto bello, molto affascinante come modo di, come scrittura, insomma. E da lì mi è venuta anche l'idea di mettere un po' di cose che anche a me piacciono o non piacciono. E a proposito, prima di passare anche a un altro brano che faremo sentire ora ai nostri ascoltatori, questo tuo disco esce con una nuova label, una nuova etichetta, L'Orto, che è un progetto direi molto interessante. Sì, Luigi Piergiovanni, il mio editore storico dell'Interbeat, con cui ho pubblicato quasi tutti i dischi, quest'anno ha aperto una nuova casa discografica, una nuova etichetta che si chiama L'Orto. E questo è il secondo progetto che cura, insomma, è uscito un album scritto da Eugenio Bennato, mi pare che in collaborazione con un giovane che non ricordo adesso il nome, ed è stato il primo lavoro discografico dell'Orto, e Dancing è il secondo, sì. Insomma, noi facciamo gli auguri quindi a questo nuovo progetto, L'Orto. Vedremo che altre cose usciranno, noi le seguiremo molto volentieri qui da Radio Contrabanda. E un altro brano è Fiume Giallo a Singapore, che a me, devo dirti la verità, è piaciuto tantissimo. Tu lo presenti come una canzone da nightclub o da balera, con pantalone bianco e portachiavi Alfa Romeo agganciato al passante. Insomma, una presentazione che fa venire una gran voglia di ascoltarla, ma fa venire anche un po', diciamo, di dire ci vuole del pelo sullo stomaco, o sbaglio? Ma guarda, questa è una visione che richiama un ricordo. Una volta io sono andato proprio a suonare, ricordo, a Torino, in zona Mirafiori, e ci siamo ritrovati proprio in questa sorta di balera, di dancing, che forse era più adatta al liscio, non so. Però mi colpì molto la figura di un signore che era proprio vestito così, cioè aveva il pantalone bianco attillato, il portachiavi con tanto di stemma della macchina, appunto, che aveva, e questa mano sulla fondoschiena della consorte, adesso non so, compagna o comunque la donna che ballava con lui, che veramente era da ridere. Fiume Giallo a Singapore per me rimane forse il pezzo più ironico, insomma, dell'album, che riprende anche questo un po' l'immaginario di alcuni testi anni 60, dal Transistor al Brivido Blu e tutta una serie di robe. Gioca anche qui con, qui è menzionato Paderno Dugnano, ad esempio, in Fiume Giallo. Che magari dovremmo dire Paderno Dugnano dove si trova, perché io credo che molti ascoltatori non ne abbiano la più pallida idea. È nel Milanese, molto vicino a Milano. Ascolta, prima di salutarci e di ascoltare Fiume Giallo a Singapore, Gerardo, visto che hai, insomma, il tuo livello di produttività artistica è, lo abbiamo ricordato all'inizio di questa nostra chiacchierata, elevatissimo, insomma, questo disco è stato concluso qualche mese fa, stai già lavorando a qualcosa di nuovo in vista del 2023 o non possiamo dire nulla, oppure ti sei un po' fermato? No, possiamo dire tutto. No, fortuna è che mi ha contattato uno scrittore regista per una colonna sonora di un film che probabilmente si girerà nel 2023, inizio 2023, e sto leggendo un po' il libro da cui poi si farà questo film, lungometraggio, e per cercare un po' di lavorare, appunto, capire come applicare poi qualche canzone, insomma. Bene. No, poi da un punto di vista proprio personale, no, le idee sempre ci sono. Sto pensando a un disco, perché Dancing, poi essendo molto comunque ritmico, eccetera, ma rimane un disco scarno da un punto di vista proprio di musicisti che hanno partecipato, anche rispetto, a differenza degli altri miei album, dove delle volte hanno registrato anche 30-35 persone. In questo caso siamo stati in quattro. Io ho suonato praticamente quasi tutto tranne basso e batteria, basso e chitarra, e poi c'è la voce femminile. Il prossimo lo stavo pensando ancora più scarno, piano, voce e contrabbasso. Però devo dire, devo ancora scrivere, non c'è nulla. Ma c'è tempo. Ma c'è tempo, sì. Tienici al corrente. Ascolta, Gerardo, grazie davvero di essere stato con noi. In bocca al lupo con questo Dancing. Il singolo, lo ricordo, è uscito, esce proprio quest'oggi. E invece il disco uscirà il prossimo 10 giugno. Noi in anteprima ci andiamo a ascoltare una seconda canzone, Fiume Giallo a Singapore. Gerardo, in bocca al lupo con Dancing. Un abbraccio. Un abbraccio, Steven. Un abbraccio a tutti. Grazie. Grazie mille. era semplice. Lei mi rispose, non è facile, non è facile. Thank you. E beh, ritorniamo a bomba con Vangelis in questo omaggio che ci accompagna come fil rouge nello zibaldone di quest'oggi, e passiamo al 1977, Dervish D dall'album Spiral, un album banzo che segna completamente, qui l'abbiamo capito, l'uso esclusivo dei sintetizzatori da parte di Vangelis. Beh, è chiarissimo, effettivamente, stiamo un po' descrivendo, stiamo un po' illustrando la parabola creativa dell'artista greco, e effettivamente diciamo che il momento in cui entrano i sintetizzatori è quello in cui forse prende forma l'identità di Vangelis più nota in generale. Comunque questo brano ci segnala Fausto, che ha fatto un lavoro straordinario nella selezione. Fu in Italia sigla del primo TG3 dal 79 all'83 e poi dei telegiornali regionali Rai dall'87 al 90, alla 91. Io non lo ricordavo, No, neanch'io, però comincio a pensare che ci fosse una mente comune dietro queste scelte, perché vedi Battiato usato come sigla con proprietà proibita, credo fosse Mixer, Icos dei Pink Floyd in un programma sportivo, forse c'era qualcuno con un gusto musicale abbastanza apprezzabile che sceglieva, ecco. E ricorderei anche Cinema, Lunedì Cinema di Lucio Dalla, tra l'altro, esattamente, bravo Banzo. Andiamo avanti, nel 79 troviamo un'altra cosa, Banzo, che tra l'altro anche qui ha una connessione con l'Italia in un certo modo, ossia Inna dall'opera Sauvage, anche questo un brano notissimo che non è stata una sigla del TG3, bensì colonna sonora di Spot Barilla, però risuonata da musicisti italiani, forse per questioni di diritto d'autore, non lo sapremo mai. Ce la andiamo ad ascoltare, tanto insomma la conoscete benissimo. Insomma, dai, questa melodia è davvero inconfondibile. Banzo, c'è da dire una cosa, insomma, viene quasi spontaneo con la riflessione che facevamo prima, commentare che almeno la Rai pagava i diritti, mentre una grande impresa come la Barilla no. Non lo so, cioè, insomma, noi stiamo avventurandoci in considerazioni un po' estemporanee, sì. No, bisognerebbe vedere se c'era stato un accordo contrattuale, questa cosa, diciamo, supera la mia conoscenza del momento, però... Amiche ed amici, il jingle della pasta, ecco che nell'arrangiamento della Barilla è proprio impresso a fuoco nella mente degli italiani, cioè quel motivo di piano che si suona con un dito solo per definizione e che ha spinto moltissime persone che si trovavano davanti a una tastiera a cercare di risuonarlo. Forse non sapevano che l'autore della melodia era proprio Vangelis. Noi ora però andiamo ad ascoltare il primo brano del nostro secondo ospite, Davide Tosques. Rimaniamo sulla musica strumentale, ascoltatevi questo primo brano che ci porta in questo viaggio lungo le sorgenti del Po. Ce lo spiegherà tra poco Davide Tosques. Mm. Questa meravigliosa canzone si intitola The First Steps, i primi passi, e è l'inizio di un disco che è in realtà una colonna sonora che esce proprio quest'oggi, 27 maggio, il cui autore è Davide Tosques, che torna a trovarci dopo un po' di tempo ed è un graditissimo ritorno, colonna sonora di un bellissimo documentario, in realtà uscito da un paio d'anni, intitolato Beside Flows the River, e questo è anche, ossia in italiano, Accanto scorre il fiume, e questo è anche il titolo appunto del disco di Davide Tosques che presentiamo quest'oggi. Innanzitutto, Davide, bentornato a Zibaldone, complimenti per questo lavoro. Grazie, ciao Steven, sempre un piacere, ovviamente. Piacere, il piacere è mio, il piacere è nostro qui da Radio Contrabbanda. Ascolta, questa canzone abbiamo voluto cominciare proprio con questo brano perché introduce questo viaggio, perché questo disco, questa tua colonna sonora, ma anche questo documentario è un viaggio, non solo un viaggio sonoro, un viaggio immaginario, è un viaggio a tutti gli effetti. Sì, sì, sì, sì, questo è un viaggio che ha fatto Marco Leone, che lui viaggia sempre camminando e lo fa anche per lavoro oltre alle altre sue attività come naturopata e altre cose, e boh, poi a un certo punto mi ha contattato tramite un'amica e ovviamente io ero contentissimo perché, visto che conosci un po' la mia musica, sai che partiamo sempre dalla natura, quindi fare una colonna sonora per un film che comunque parla di natura, per me insomma era la prima volta, ma non vedevo l'ora. Voi vi siete incontrati appunto con Marco Leone, che è il regista di questo documentario, nel giugno del 19, l'anno precedente alla pandemia. Il film documentario, sì, poi è uscito effettivamente alla fine del 19, prima che ci richiudessero in casa, quindi poi vederlo nei, sì, mesi successivi era come dire, insomma, vedere quello che ci eravamo persi nei momenti di lockdown. L'incontro tra di voi, insomma, un po' lo stavi dicendo, è stato un incontro naturale, perché non c'è solo l'amore per la natura, ma anche, no, il camminare nei boschi, la passione per la conoscenza delle piante, la fotografia, ovviamente la musica, ecco, piante, boschi. Ricordo anche ai nostri ascoltatori che tu da un po' di anni vivi proprio nei boschi fuori Torino, e lavori la assolutamente terra. Sì, sì, sì, sì, faccio quello, giardiniere, insomma un po' di cose, oltre, vabbè, chiaramente la musica e... come sai, il mio antico lavoro che mi segue tutta la vita, che è quello di illustratore. Eh sì, sei riuscito a mantenere in piedi tutte queste diverse sfaccettature e passioni della tua vita, trasformandole, alcune di esse anche appunto anche in lavoro. Ascolta, Davide, raccontaci un po' questo documentario, perché accompagna in realtà poi il lavoro che tu hai fatto con la musica. Ricordo che questo documentario, tra l'altro, si può anche vedere online. Sì. Sì, sì, sì, adesso noi l'abbiamo già, poi tra l'altro aveva già partecipato a un po' di festival e cose, poi in occasione dell'uscita del disco abbiamo deciso di metterlo online. L'avevamo già proiettato in diversi cinema, è stato accolto molto bene, devo dire, anzi non ce l'aspettavamo. E quindi è niente, un documentario che parla di questo cammino dalla sorgente fino alla foce del Po in solitaria, dove insomma la persona, che appunto Marco Leone, è un viaggio interiore, non solo un viaggio a piedi, cioè, perché inevitabilmente sì, confrontandosi con la solitudine, col proprio corpo che ti porta, il corpo che porta il corpo, come facciamo? Vabbè, comunque siamo capiti. Il corpo che porta l'anima in giro, ecco, una cosa del genere, non lo so. Sì, ovviamente si cominciano a fare un po' di pensieri, pensieri che diversamente non si farebbero, secondo me. Poi il viaggio magari in macchina, in moto, in bici, è tutta un'altra cosa, certo. Ma a piedi è, insomma, importante. Sono anche parecchi chilometri, direi, no? E sono 600 chilometri, mi pare. Sì. Quanto ci ha messo a farlo, circa, Marco? Sai che non mi ricordo bene. Ci ha messo... Marco è uno che cammina. Sì, lui, sì, riesce a fare anche 50 chilometri al giorno. Quando andiamo a camminare insieme ne abbiamo fatti al massimo 39. Che comunque, sì, non sono pochi. Non sono pochi, affatto. Ascolta, no, andiamo... No, no, ma poi guarda... Andiamo a ascoltarci un altro brano, poi scusa se ti interrompo, così figurati. Diamo la possibilità anche ai nostri ascoltatori di entrare in questo spirito di questo viaggio, no? Beside Flows the River, andiamo a ascoltarci un'altra canzone che tu parlavi di corpo umano, questa canzone si intitola proprio The Human Body e poi rientriamo qui insieme a te. Human Body, siamo in viaggio con Marco Leone dalla sorgente alla foce del Po, viaggio che poi appunto è stato raccolto dallo stesso Marco Leone come regista in Beside Flows the River, un bel documentario che potete trovare online e che è stato appunto accompagnato dalla musica, dalla colonna sonora di Davide Tosques che vi stiamo presentando e proponendo perché proprio quest'oggi, 27 maggio, esce in digitale l'album Beside Flows the River con la colonna sonora composta da Davide Tosques che ci accompagna. Davide, ci raccontavi un po' di questo progetto, di questo viaggio, ma com'è stato comporre appunto delle canzoni pensando in questo progetto, pensando in questo viaggio, ossia come hai lavorato tu per comporre questa colonna sonora? Allora, la comodità di fare questa, di comporre questa colonna sonora è dovuta al fatto che io normalmente già lavoro in questo modo, quindi partendo dalle suggestioni, luci, paesaggi, atmosfere, già normalmente per le mie canzoni, quindi qui insomma accompagnare proprio tutta una serie di immagini ero c'è una volta tanto, ecco, perché come sai nei miei dischi c'è tanta musica strumentale già, c'è tanta musica, ecco, oltre le parole. No, ho cominciato subito a racimolare suoni in giro, quindi niente, ho cominciato a prendermi pietre dal bosco, pezzi di legno e provare un po' così, perché ho detto ma se deve essere un film sul cammino nei boschi, prevalentemente boschi, insomma nel documentario, poi ci sono anche altre, le risaie, ci sono un sacco di altre situazioni, montagna, e quindi sono partito più o meno da lì, ecco, a fare la prima cosa che credo di aver fatto sono delle ritmiche con delle pietre, ho preso delle pietre, l'ho messa in una cassa di legno e ho cominciato a vedere un po' che succedeva. Poi da lì hai aggiunto chitarra acustica, lap steel, tantissima. Tra l'altro hai aggiunto anche tra i tanti strumenti che suoni, perché insomma è un lavoro davvero da one man band, potremmo dire, sì, anche degli strumenti particolari, voglio dire, al di là di bassi, elettrici, sintetizzatori, l'armonica, le chitarre, la lap steel, eccetera, e le percussioni o appunto suoni anche presi dalla natura, c'è anche una calimba piemontese. Che cos'è? Perché da quello che capisco l'hai creata tu. Sì, sì, sì, guarda, un giorno ero in officina, c'era un po' di roba sparsa in giro, pezzi di lamiera, ho detto ma cosa possiamo fare con tutta sta roba? E così ho pensato di fare questa, quella che ho chiamato calimba piemontese, che praticamente è un pezzo di legno con delle lamelle che spuntano da entrambe le parti, che avevo anche una mezza idea di metterla in produzione. Adesso ne ho fatti 2 o 3 prototipi. Uno di questi prototipi, tra l'altro, l'ho regalato a Mirko Mariani degli Extra Liscio. Ah, bene. Perché lui è molto molto curioso, sì, sempre. Sì, quindi sì, un giorno sono andato a trovarlo. Bisogna accordarlo con la lima. E vabbè, una volta che si accorda è a posto. Però è molto, come avevi sentito dalle canzoni, è un suono molto particolare, diverso da una kalimba, però somiglia. Sembra gigantesco il suono da quello che ho registrato, in realtà è uno strumento piccolissimo. La calimba piemontese. E ascolta, tra l'altro, insomma, è vero che è un disco tutto tuo praticamente, però sì che c'è una collaborazione che è quella di Ugo Reis. Un disco? È un disco tutto tuo, dico. Però sì che c'è una collaborazione, sì, che è quella di Ugo Reis, che insomma ci mette la, sì, voce in un brano. Sì, perché in realtà lui ha doppiato la... ha raccontato la sua voce, ha prestato la sua voce nella versione in inglese, e quindi da lì ho detto ma siccome un disco magari che possiamo dire è il primo strumentale che faccio, volevo puntare anche un po' all'estero, e quindi ho detto ma mettiamo la sua voce, perché nella versione italiana la voce narrante è quella di Franco Prunotto, che è un attore, un amico anche lui, però chiaramente la voce di Ugo che conosciamo, insomma, noi appassionati di musica, è proprio grossa, è proprio di atmosfera, e quindi ci stava, insomma, di fare questa versione. Ce l'andiamo a sentire allora la voce di Ugo. Ugo Reis qui con Davide Tosques in My Cocoon, canzone tratta da questo disco che vi stiamo presentando quest'oggi, Beside Flows the River, colonna sonora dell'omonimo documentario. My tent, my little crystal egg, my cocoon. And outside, the unknown. The lightest sound, a creaking, a rustle in the grass, and we find ourselves on the dark side of the moon. The enchantment, the magic of the journey vanishes. Breath suddenly stops. We are thrown into a world inhabited by wicked demons. We feel lonely. The darkness surrounding us creates a barrier between us and life. And now, what happens? We remain there, still, motionless, waiting for our destiny until silence falls. All is quiet. Our eyes surrender to weariness. We abandon ourselves to the ground. Laying our body to the earth acquires a deeper meaning. We reconnect to the mother. La voce che avete ascoltato è quella di Ugo Reis. Davide, musicalmente, diciamo, a livello di strumentazione, questo brano è molto particolare, perché ci sono solo delle lastre metalliche, così? Sì, sì, sì, sono lastre metalliche suonate con un archetto da violino, che è archetto da 4 soldi, perché non potevo usarne uno di quelli seri, a parte che non ce l'ho, ma dopo un po' si sfascia facendo questa performance da officina meccanica, quindi sì, con una marea di riverbero, ovviamente, microfoni a contatto, queste cose qua. Molto divertente. No, questi erano già esperimenti che avevo fatto in passato, e poi qui li ho utilizzati infine. Ascolta, tra l'altro, parlando appunto di della parte musicale della registrazione, ecco, il disco è stato registrato nello studio che si chiama Confine del Bosco, voglio dire che è il tuo studio personale a Cavagnolo in provincia di Torino. Non poteva esserci un nome migliore per un disco come questo, no? Sì, assolutamente. Per un disco ed un progetto, voglio dire, legato appunto a camminare nel bosco, come il documentario Beside Flows the River. Sì, ma infatti con Marco ci siamo trovati su tante cose. Già lui che cercava qualcuno a fare una colonna sonora, trova me, che comunque abito già nel bosco, ho questo studio che si chiama appunto Confine del Bosco, che l'ho chiamato così perché ha proprio... Cioè si entra dal cortile di casa mia, diciamo dal retro, e tutto il resto dello studio finisce nel bosco. Quindi ho pensato che era proprio tagliato fra il mio cortile, che vabbè, comunque la casa è già nel bosco, però insomma, un nome bisogna darglielo, insomma. E come? Sembrava adeguato. E ascolta, e tornando anche al documentario, voglio dire, che di Marco Leone. Marco Leone, insomma, ci dicevi che ha fatto del cammino un lavoro, no? E come ha fatto, insomma, durante il lockdown e negli ultimi 2 anni? È riuscito a portare avanti altri lavori, ossia altri viaggi, altre forme di camminare? O, insomma, non lo so, tu magari ci hai parlato, ero curioso di sapere qualcosa al riguardo. Certo, ma lui è rimasto un po' bloccato come tutti noi, chiaramente. Lui abita a Saluggia, anche lui ha un po' di terra, un contesto completamente diverso dal mio perché lì è pianura, insomma. Quindi no, sicuramente non è andato a camminare. Abbiamo ripreso a mozzichi quando si poteva ogni tanto, che non si capiva bene, poi i decreti che facevano, per cui sì, può uscire questo... quello biondo può uscire, l'altro che ha più di 6 anni deve stare in casa, tutte queste robe qua che non ci abbiamo capito nulla, quindi ogni tanto si andava a camminare non sapendo se si poteva o no. Comunque, no, poi lui fa altro, anche appunto fa un naturopata, massaggi, insomma una persona molto curiosa che ha sempre 1000 progetti. Quindi insomma, fermato non si è mai fermato in qualche modo, ecco, ha sempre idee. Non ci fermiamo neanche noi, e so che neanche tutti fermi, ma ne parliamo tra poco. Prima andiamo ad ascoltarci la canzone che dà proprio il titolo a questo progetto, Beside Flows the River, e poi rientriamo un'altra volta insieme a te. Thank you. Beside Flows the River, Davide Tosche, colonna sonora dell'omonimo documentario di Marco Leone, di cui stiamo parlando questo pomeriggio qui a Zibaldone. Davide, dicevamo che insomma Marco Leone non si ferma mai nei suoi progetti, anche nei suoi viaggi, nelle sue camminate in diverse latitudini, nemmeno tu con la musica. Ricordo che a Zibaldone ne abbiamo sempre parlato, hai all'attivo già 4 dischi come, diciamo, cantautore, dischi tuoi come solista, Dove l'erba è alta del 2009, Il lento disgelo del 2012, Luci della città distante nel 2014 e il più recente Sulla terra nel 2020, che tra l'altro si collega anche fin dal titolo di tutte le cose che stiamo parlando quest'oggi, tra terra, viaggi e boschi. Che cosa hai in ballo ora, visto che in realtà questo progetto che stiamo presentando oggi era già pronto un paio d'anni fa, 2-3 anni fa? Guarda, adesso ho scritto moltissime cose, che alcune le avevo già in mente per il disco prima di Sulla terra, perché mi ero rimesso molto al piano. Poi di nuovo lì, lavorando a questo documentario, ho abbandonato un attimo il piano e ho ricominciato di nuovo con la chitarra acustica per fare portare in porto, adesso vediamo quando sarà possibile, spero abbastanza in tempi brevi, un disco che ho in mente da tantissimi anni, un disco solo di atmosfere notturne, come sai, a me è una cosa che c'è spessissimo nelle tue musiche, nelle tue canzoni. Sì, sì. Sì, sì. E quindi volevo proprio una cosa abbastanza onirica, un po' tipo, ecco, magari un po' più simile a Dove l'erba è alta. Ovviamente con tutta questa distanza temporale sarà un'altra cosa. Però sono molto, sai cos'è, che io sono molto curioso di vedere cosa esce da me. Quindi sì. Voglio, così come diceva il mio amico Federico Sirianni un giorno che stavamo chiacchierando, cioè il momento più bello comunque per noi che componiamo musica è sempre quello quando esce la canzone. Poi puoi mixare, puoi chiamare i musicisti, puoi vincere premi, pubblicare roba, ma quel momento lì è più bello. È fondamentale, sì, non c'è dubbio. Sì. Noi ci avviamo alla conclusione di questa chiacchierata e ci salutiamo con anche l'ultimo brano che chiude il tuo disco e che chiude in realtà anche come colonna sonora il documentario. Where is the end? Dov'è la fine? Ecco, perché questo titolo e come hai voluto chiudere anche tu la colonna sonora? Ma il titolo riprende proprio una cosa che dice Marco. Cioè, nel senso che quando noi passiamo miglior vita, come tutte le creature di questa terra, piante comprese, poi ci ritrasformiamo in altro, diventiamo vapore, terra o quello che sia, e quindi in qualche modo non finiamo. Questa è la domanda: dov'è la fine? Cioè, ci trasformiamo. Ovviamente mi sembrava giusto utilizzare di nuovo lì la lap steel, perché ho usato per tutto il film, uno strumento comunque portante di questo documentario, utilizzata in modo, diciamo, non troppo convenzionale. Di solito si usa più per fare country, queste cose, perché invece secondo me è uno strumento estremamente che ha delle possibilità sperimentali molto, molto forti. Lo è assolutamente. A me piace moltissimo. Beside Flows the River è il titolo del nuovo disco di Davide Tosches, che esce proprio quest'oggi, colonna sonora dell'omonimo documentario che vede protagonista, ma di cui anche regista, Marco Leone, documentario che potete trovare online e che vi consiglio di andare a vedere, che merita molto un viaggio dalla sorgente alla foce del Po, realizzato nel 2019, proprio poco prima dell'inizio della pandemia. Davide, noi ci andiamo ad ascoltare la canzone che chiude appunto il tuo disco e che chiude appunto anche il documentario, Where is the End? Ti ringraziamo e ti facciamo un grosso in bocca al lupo per i nuovi progetti. E ti ringrazio anch'io, moltissimo. Un abbraccio, grazie. Adesso abbiamo in collegamento con noi Anna Corcione, che proprio quest'oggi sta inaugurando una bella mostra che si intitola Naturalia, in uno spazio di Grazia altrettanto bello, che è la galleria Espai Souvenir, che si trova in Travessia dei Sant'Antoni 27, molto vicino al metro di Fontana. Dico subito che questa intervista è stata registrata perché mentre sta andando in onda si sta inaugurando proprio Naturalia. Do il benvenuto ad Anna Corcione, che torna a trovarci qui a Zibaldone. Anna, bentornata. Ben ritrovati. Ciao Steven, ben ritrovato. Un piacere averti con noi e per parlare tra l'altro di un altro dei tuoi progetti che sono sempre interessanti, è questa esposizione, appunto il nome è Naturalia, che è curata da Beatrice Cordaro e nella quale tu mostri qui a Barcellona, sarà visitabile fino al 31 maggio, come dicevo, alle Espai Souvenir di Grazia, alcune delle tue nuove opere, e il titolo è, insomma, già dice qualcosa per chi, insomma, vuole intendere Naturalia. Il legame con la natura. Sì, Naturalia è un progetto che sto facendo da un paio d'anni ed è tutto quello che sento nei confronti della tutela dell'ambiente. In un primo momento è nato perché andavo in giro per il mondo, insomma, paesi diversi, e volevo portarmi sempre con me un organico, una radice, qualche cosa che appartenesse al posto, al luogo, per non portarmi il souvenir classico, qualcosa di vivo, che è anche lontano dalla fonte ma restasse vivo. E poi una volta che sono tornata a casa ho visto come se fosse un'archeologia di radici, di posti dove sono state. Per me era quasi come se avere davanti ai miei occhi una mappatura fatta di luoghi immaginari che avevo visitato. E poi ho cominciato a porli sulle mie tele, e ogni tela che disegnavo, che dipingevo con questo esperimento che metto insieme acrilico ed olio, che in un primo momento, insomma, si separano perché l'acrilico è fatto con l'acqua e l'olio ovviamente è fatto con, certo, con l'olio, la pittura, poi in un secondo momento più attento e con una texture particolare, aggiungendo stucchi, pigmenti naturali eccetera, ho visto che prendeva una forma speciale per me. E ogni tela veniva dipinta con il colore e con una texture diversa a seconda del luogo che avevo visitato. Infatti c'è Barcellona, che è bellissima per me, è tutta bianca, perché non è il senso del non colore, ma è tutti i colori messi insieme. E ascolta una cosa, ma parlando di Barcellona, ma che radice ti sei portata da Barcellona? Perché dico, è vero che ci sono, insomma, ci sono dei parchi, ci sono molti alberi in città, però ecco, non è proprio facile trovare degli spazi naturali propriamente detti. Sì, perché allora in realtà è tutta una sfida, perché quando vado in un posto non cerco mai niente, e dico sempre che questa radice, questo fiorellino, qualcosa che arriva a me. E infatti ci sono due dipinti che sono un omaggio a Barcellona. Uno è una radice che ho trovato proprio fuori casa dove stavo, perché questo legame forte che ho con Barcellona viene da molti Barcellona anni, certo. Mese, sì, un mese per ogni anno, e ci sto benissimo. Poi abbiamo fatto delle cose bellissime all'Istituto Italiano di Cultura, residenza a Pablenou con questo pazzesco artista Pablo Brera, insomma è sempre bello il legame con Barcellona. E quindi esco dalla casa e trovo questa radice bellissima e me la porto e dico, questa sarà. E un'altra simpaticissima cosa, l'ho trovata, un fiorellino, l'ho trovato in un piatto dove stavo mangiando e dove c'era questi fiori che venivano poggiati come decorazione nel cibo, sono questi combustibili che si possono, sì, mangiare. E l'ho conservato veramente in un luogo immaginabile, perché temevo che si potesse, insomma, perdere, e invece sono riuscita, ho fatto questa piccola tela che è sempre sul bianco, come l'importanza del bianco. Lessing Moore, sai, gli diamo importanza al bianco perché perché è un colore indispensabile per noi. È come. E ascolta, e oltre a Barcellona, che altre città ci sono in questa mostra, che ricordo il titolo è Naturalia, che si potrà vedere a partire da questo pomeriggio alle Espai Souvenir di Grazia? Guarda, una che sono particolarmente legata è un paese che si chiama Mirto ed è il luogo di nascita di Peppe Voltarelli, che ho curato tutto l'artwork del disco, ed è questa radice con un fondo tutto blu, con un fiume oro, si può vedere sulla copertina del suo disco Planetario. Sì, sì, che abbiamo presentato l'anno scorso. E a questo proposito ricordo che Peppe Voltarelli ha suonato un paio di giorni fa a Madrid in un bel concerto nella capitale spagnola e che domani sera parteciperà insieme a tanti altri artisti, tra cui Holden, che abbiamo intervistato la settimana scorsa, Russo Sala, Joan Isaac, Marta Imico, solo per nominarne alcuni, nello spettacolo Casa Rambaldi, domani sabato 28 maggio alle 21 alla Sala Luz de Gas di Barcellona, un omaggio alla canzone catalana e a quella italiana e appunto ai ponti che le traduzioni e l'arte crea tra queste due culture musicali ma anche poetiche. E, ci parlavi di Mirto, Barcellona, poi così insomma giusto per fare un piccolo viaggio attraverso le tue tele, che altri luoghi ci sono? Guarda, c'è qualcosa di New York, di Los Angeles, San Diego, Montreal, Toronto, poi c'è Buenos Aires, c'è Uruguay, Messico, abbiamo insomma la mappatura anche europea, la Francia, Ostenda, Amsterdam, Rotterdam. È un viaggio per tutto il mondo. Sì, è un viaggio abbastanza lungo. E poi abbiamo questo bellissimo, questa bellissima radice che viene dalla Sicilia, che è il paese dove vive la mia curatrice, che si chiama Beatrice Gordaro, che mi accompagna in questa nuova avventura in un modo veramente speciale. Lei è una curatrice molto brava, giovane, ma la vedrete comunque. In galleria. Bene, bene, quindi insomma invitiamo tutti a passare a vedere alle Spy Souvenir di Grasse. Ricordo l'indirizzo Travessia de Sant'Antoni 27 vicino al metro di Fontana per vedere Naturalia, questa esposizione personale di Anna Corcione curata da Beatrice Cordaro. E un'ultimissima domanda al volo, Anna, ci hai parlato appunto della maniera in cui hai lavorato a queste tele e del legame con la natura, il titolo appunto è Naturalia. Ecco, ma di fondo, oltre a questo, che messaggio c'è riguardo all'ambiente, visto che stiamo vivendo in una congiuntura storica dove finalmente si parla dei rischi del medio ambiente, del cambio climatico, e dove però ci troviamo davvero a dover darci una mossa per salvare il pianeta? Questo è un tema abbastanza importante, perché dobbiamo tutti quanti noi tutelare l'ambiente. E Naturalia nasce dall'esigenza, io ho studiato l'effetto biofilia, questo fascino che abbiamo verso la natura che è nato in noi, e di tutto quello che la natura porta all'essere umano come beneficio, perché si è detto moltissime volte che in un ambiente dove c'è tanta natura, ma anche delle fotografie che rappresentano la natura, come una musica che rappresenta la natura, ha un effetto benefico sull'essere umano, e questo è un rafforzare l'idea che noi ci dobbiamo circondare di natura e di tutto quello che è il suo effetto, e portarlo sia nelle nostre case che tutelarlo all'esterno. Effettivamente, è proprio così. Anna, grazie davvero di averci accompagnato a Zibaldone, in bocca al lupo con questo nuovo progetto e questa mostra. Grazie a voi. Grazie a voi. Naturalia, alle Spy Souvenir di Grassia da quest'oggi fino al prossimo 31 maggio. Continuiamo con l'omaggio a Vangelis, ci andiamo a ascoltare una canzone che è uscita nel 1981, un'altra colonna sonora, Chariots of Fire. In Italia il film era chiamato Momenti di Gloria, un film di Hugh Hudson, dove Vangelis appunto ha fatto la colonna sonora, che conoscerete sicuramente, sentitela qui. Thank you. Dopo 2 anni di pandemia, tanta voglia di libertà, anche se è l'anno boom dei matrimoni. Il vestito si cerca anche online, ma soprattutto nello spazio. È la scoperta di un'astronoma australiana che l'ha individuato grazie alle frequenze radio che emana. Vani finora tutti gli appelli a salvare gli invitati e le damigelle. Sono già a bordo della stazione spaziale russa per seguire la convention di Forza Italia. Braccio di ferro fra politica e magistratura sulla riforma della giustizia. Anche le api confuse dal referendum. In centro a Milano uno sciame assalta il contenitore refrigerato di un rider e conquista il 19° scudetto per il Milan. Tifosi in delirio hanno invaso la metà degli allevamenti della Valpadana. Putin, se installeranno basi e armi, dovremo rispondere un po' meglio. Volano i prezzi degli alimentari quest'anno e ora cresce la linea di chi vuole processarli come criminali nazisti. Erdogan torna a condannare Svezia e Finlandia, non parla di singoli paesi ma fra le righe chiede agli Stati Uniti solo se Vasco Rossi sarà finalmente il comandante della NATO. Alle prese con un caldo senza precedenti, Salvini e Meloni ad Arcore in vista delle amministrative, favoriti dai cinghiali. Stavano trainando un'auto essenziale per fare ripartire l'economia e il lavoro, con le mani. I leader del carroccio, facciamo da soli, ho trovato uno spinello, così è andata un po' meglio. Per una disputa sulla spartizione dei terreni lasciati in eredità un doppio conto corrente in euro e in rubli. Sarebbe sopravvissuto alla fine del governo. Conte, e ora scommette anche sul lusso, può avere un ruolo, dice il segretario Vaticano Gallagher, al ritorno dal Forlivese. Berlusconi è un patrimonio, resti fino al 2023. Gli esperti, forse martedì, porrà fine alla guerra. Ebbè, come avete sentito, sono tornate a bomba anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, ultimissime che davvero ci mostrano la realtà da un altro punto di vista e con un altro sguardo e approccio, come si suol dire in italiano. Banzo, insomma, tante cose, mi sembra che Berlusconi sia molto presente questa settimana. Berlusconi non può non essere presente, d'altronde, è sempre nei nostri cuori. Rimarrà fino al 23? Ma non ho capito dove, però probabilmente sì, ecco. Nei nostri cuori anche più a lungo, però come forma di malattia latente, ecco. E invece sul vertice dell'ultradestra d'Arcore, che dici? Ma questa cosa di Salvini con lo spinello mi ha un po' sorpreso, perché insegue le mode, lo sai. Ma sappiamo che Salvini all'inizio aveva questa posizione antiproibizionista, poi diciamo che è salito sul carro del neoproibizionismo, no? Allo stato spacciatore, però sappiamo anche che è un divago, quindi non ci sorprendiamo troppo. Come ha detto recentemente in un'intervista all'Espresso Guido Crosetto, uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, ha detto, Salvini è un fantasista. Ecco, non so se era un complimento. Forse è un gigantesco eufemismo, però... Ecco, forse stai comunque saltando una delle notizie più importanti che secondo me... è quella che riguarda i matrimoni, ecco, con questo incipit memorabile, tanta voglia di libertà, ma è l'anno boom dei matrimoni, velenoso, questo inserimento, questa ricerca nello spazio degli abiti nuziali, grazie alle frequenze radio che emanano, è praticamente fantascienza pura, vedi, Steven, come la realtà è sempre in grado di sorprenderci. E come presto probabilmente i matrimoni spaziali diventeranno un lusso non solo per Elon Musk ma per tutto il parterre de roi degli altri possidenti, ecco. Sì, torniamo al nostro Vangelis in questo sprazzo di Zibaldone che ci rimane prima di concludere la puntata e andiamo ad ascoltarci un altro dei suoi temi forse più conosciuti e passiamo qui davvero alle colonne sonore che l'hanno reso celebre soprattutto all'inizio degli anni Ottanta. Thank you. Era il 1982, Missing, uno dei grandi film di Costa Gavras, regista greco, per quanto poi naturalizzato francese, sulla dittatura cilena. Missing, scomparso, era il titolo in Italia. E questo brano, appunto, dalla colonna sonora di Missing, anche questo banjo è stato utilizzato per un periodo della Barilla nei suoi spot. Però, ecco, aggiungo anche un'altra cosa. Poi, in realtà, da metà anni 90, per ironizzare, appunto, sulla uscita di scena di un personaggio conosciuto, la Jalapas Band, insomma, se tu ti ricordi, lo utilizzò quando parlava di qualche allenatore esonerato. Io ricordo Zeman e così via. Ma Zeman lo ricordi perché è stato esonerato abbastanza spesso. Esatto, per quello nella, dico. Nella sua carriera, però, veniva usato anche per la partenza dei fenomeni parastatali, sempre sì, con queste immagini di repertorio assolutamente improbabili, dei più assurdi mezzi di trasporto. E effettivamente questo è anche abbastanza sintomatico di quanto questa musica si fosse incistata profondamente nell'immaginario collettivo, ecco. Sì, comunque Vangelis, insomma, famoso per tante cose, soprattutto le colonne sonore, insomma, oltre a Missing, Blade Runner, di cui parleremo tra poco, e con una canzone di Blade Runner ci saluteremo, però ha fatto anche ovviamente mille progetti. L'unica cosa che invece praticamente non si hanno sono registrazioni dal vivo, concerti dal vivo di Vangelis, che ha quasi sempre composto tutto in studio, eccetto davvero due piccole cose. Cioè, una non era piccola, anzi era un concerto ad Atene una ventina d'anni fa, però ecco, mancano praticamente concerti live. Ma all'inizio degli anni 80 ha anche collaborato con il cantante degli Yes, John Anderson, con cui ha composto tre dischi, tre album di studio. Uno è uscito nel 1983, si intitola Private Collection, si presentavano come John Evangelis, e noi da questo disco dell'83 ci andiamo a sentire la Italian Song, e poi rientriamo ancora qui per alcuni ultimi minuti dello Zibaldone. Italian Song, John Evangelis, da Private Collection, siamo nel 1983. Banzo, prima parlavamo di spot, insomma, o sigle basate appunto con brani di Evangelis. Insomma, in Italia ce ne sono stati, ma immagino in tutto il mondo, una marea. Pensa che proprio da un altro album di Evangelis con John Anderson del 1980, Short Stories, la canzone Curious Electric, l'incipit almeno di questa canzone è stato la sigla del Fatto di Enzo Biagi, Vabbè, no, no, ma è vero, non ridere. Scoprono, non ho riso perché mi sembrasse qualcosa di assurdo, ma è perché proprio qui sta piovendo sul bagnato e non lo sapevo. No, no, ma poi comunque... continuiamo, guarda, te ne dico delle altre, perché per esempio l'intro di Spiral, prima ci siamo ascoltati Dervish D da quel disco degli anni 70, è stata utilizzata come sigla del giornale radio di Radio Padania Libera. Qui probabilmente non era la stessa persona che selezionava, che possiamo immaginare selezionasse i pezzi, le sigle in Rai, però, sicuro. Vabbè, c'è comunque una pervasività. E tornando un attimo alla canzone che abbiamo appena sentito, ecco, 1983, Vangelis e John Anderson, insomma, cantante di Yes, quindi figura cardine del progressive. Vangelis aveva avuto i suoi trascorsi del progressive, però siamo negli anni 80 e qui, insomma, quel periodo in cui il progressive era quasi diventato un genere carbonaro, benché esistesse il neo progressive già, e quindi vedi come due musicisti nati, in un caso almeno cresciuti col progressive, stessero virando verso Alta Lili. E comunque, Italian in che senso? Ecco. Sì, no, appunto. Ma guarda, adesso andiamo ad ascoltarci un altro brano, passiamo a un altro grande film, Antarctica, 1983, di cui ha scritto la colonna sonora proprio Vangelis, film il cui regista è Kureyoshi Kurahara. Noi ci andiamo ad ascoltare proprio il film For Antarctica, che c'è anche qui, io insomma direi un paio di aneddoti che sono interessanti e che si legano anche a quello che stiamo dicendo. Anzi, guarda, non so se dirlo, lo diciamo dopo. Tu che dici, Banzo? Ma io ascolterei a questo punto il pezzo per far crescere l'attesa dei nostri ascoltatori. Dai, va bene, allora ce lo andiamo a sentire e poi vi dirò qualcos'altro che ha a che fare con le sigle e con ovviamente la televisione italiana. Vincenzo, per favore non piangere, almeno insomma contieni le lacrime, eh? Ecco, esatto, perché appunto fuori onda stavo spiegando a Steven che in occasione della vigilia di Natale dell'87 la visione di questo film su Italia 1 mi portò alle lacrime più totali e assolute. Beh, d'altronde è un film abbastanza drammatico, l'eroismo di questi cani giapponesi che fece breccia nel cuore tenero del piccolo Banzo. Ma poi erano anche ancora gli anni del CAF, come non piangere ricordando quell'epoca per la politica italiana. Allora, bando alle ciance, Banzo, le due cose che volevo dire: una è che innanzitutto il film Antartica viene spesso, questa colonna sonora, associata ad immagini con sensazione di freddo, ghiacciai, calotte polari eccetera, in servizi televisivi che hanno a che fare con la natura, l'Antartide e così via in generale, e poi che alla fine degli anni 90, qui torniamo agli spot, la Kolmar, che come sapete vende articoli sciistici, utilizzò un frammento di questa colonna sonora per insomma uno spot televisivo dove si vedeva un uomo che sciava su un grattacielo. E qui continuiamo, probabilmente, non so, potremmo fare un programma di soli aneddoti a questo sì. punto. Sì, guarda, te ne aggiungo altri due. Un altro che molta gente, da quanto ci dice Wikipedia, attribuisce la sigla della trasmissione Jonathan Dimensione Avventura, che era un programma condotto da Ambrogio Fogar, a Vangelis. Invece il brano non era suo, era composto da Piovan, che insomma ricalcava lo stile e i suoni di Vangelis, però insomma l'aveva fatto lui e non Vangelis. E te ne aggiungo ancora un'altra, proprio che si collega anche all'ultimo brano con cui ci salutiamo, che è ovviamente la colonna sonora fantastica di Blade Runner, film che non ha bisogno di presentazioni, che il tema finale di Blade Runner è stato per anni la sigla, sai di chi? Di cosa, Banzo? No, vediamo. Linea Verde. No, davvero? Cose che non potevo assolutamente immaginare, ma che poi in fondo penso che riposino nel subconsciente di molti italiani, nel subconscio, perché insomma la televisione, poi gente della nostra generazione o insomma gente, ecco, della nostra età, comunque non giovane, ecco, è stata esposta alla TV in modo molto intenso, quindi probabilmente in un qualche anfratto del cervello c'è il ricordo di queste sigle, ecco. Sì, e comunque, dimmi. Stiamo parlando veramente degli anni Ottanta, nello stato più puro, allo stato più puro, Ambrogio Fogar, cosa mi hai ricordato? Sì, bene, ascolta, c'è da dire tra l'altro che in questi anni Vangelis componeva davvero una miriade di cose, no? Il film Missing è dell'82, Blade Runner è anche dell'82, Antartica dell'83, le composizioni con Jon Anderson degli stessi anni, vabbè. Noi ci salutiamo. Doveva essere molto prolifico, perché è difficile immaginare che fosse costretto a comporre per esigenze alimentari, eh? No. Immagino. Noi ci andiamo ad ascoltare dalla colonna sonora di Blade Runner, Tears in Rain, che è il brano che accompagna quella famosa scena del monologo "Io ho visto cose", insomma ve lo ricordate, pronunciato da Rutger Hauer e ormai base di meme e di battute ovunque, con il quale appunto anche ci salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima settimana per altre due ore di Zibaldone, come sempre qui su Radio Contrabanda. Banzo, grazie di essere stato con noi. Grazie a te Steven, a venerdì prossimo. A venerdì prossimo, noi ci salutiamo con Tears in Rain e, come era solito dire, il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvana, alle 19.55 tutti i venerdì diceva: sono Vangelis e ho composto anche involontariamente sigle che voi umani non potreste nemmeno immaginarvi. È proprio vero. Tears in Rain. Bye bye. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the darkness of 10,000 feet. All those moments will be lost time. Like